Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. 9 persone interrogate per ore dai carabinieri, e tra queste ci sarebbe anche chi avrebbe colpito Emanuele Morganti, uccidendolo. Si stringe il cerchio intorno al branco che nella notte tra venerdì e sabato ha massacrato a pugni, calci e sprangate la testa il 20enne di Alatri, in provincia di Frosinone. Una lite nata, come hanno riferito alcuni testimoni, in questo locale è ora posto sotto sequestro, forse per un apprezzamento fatto da un giovane albanese alla fidanzata di Emanuele. Prima sarebbero volati gli insulti, poi l'aggressione. Una volta uscito dalla discoteca, il ragazzo sarebbe stato circondato da alcune persone. Una di queste gli avrebbe sferrato numerosi colpi con un tubo di ferro, provocandogli fratture multiple a cranio e vertebre. Sono stati gli stessi amici di Emanuele Morganti a chiamare i soccorsi, ma quando è arrivato in eliambulanza al Policlinico Umberto I di Roma, le sue condizioni sono risultate subito disperate. Sottoposto a un delicato intervento alla testa, è stato poi trasportato in rianimazione. È morto dopo 36 ore di agonia. I genitori hanno autorizzato la donazione degli organi. Dice che qualcuno l'ha spinto e poi hanno infierito su di loro. Noi ci siamo lasciati la settimana passata proprio con una trasmissione che parlava della violenza minorile, le chiamavamo le baby gang, qua parliamo di un ragazzo di 20 anni. Il quadro, se non ci fosse stato un esito così tragico, sembra quasi quello classico delle scaramucce che si fanno in discoteca il sabato sera, sono sempre fatti, volano parole pesanti, può esserci dei battibecchi, ma non si arriva normalmente, o perlomeno nella regola o in quello che raccontano le cronache, spesso in un atto così efferato, un pestaggio così violento. Un ragazzo è stato ammazzato a sprangate, ammazzato di fronte a altri testimoni. Poi non entriamo nello specifico di questo episodio, di cui oggi parlano tutti i giornali, perché è chiaro, quando muore un ragazzo che era la prima volta che usciva con la macchina del padre, per farvi capire che livello generazionale ci stiamo muovendo, parla la fidanzata, il Corriere della Sera fa una sua foto fiero con un grosso pesce che aveva appena pescato, quindi è un ragazzo come i nostri figli, come quelli che vediamo tutti i giorni, non apparteneva a nessun giro oscuro né a nessuna organizzazione paracriminale, era un ragazzo che è andato con la ragazza in discoteca si sa, si beve, si fuma, ci si fa di sostanze molto spesso, o perlomeno il clima comunque può portare all'uscita dalle proprie normali maniere di contenere la rabbia, l'indignazione, l'insulto, l'orgoglio e via dicendo. Questo però è un caso, secondo me, su cui vale la pena di parlare, di approfondire, perché è semplicemente, secondo me, un altro dei campanelli d'allarme di un quadro generale che stiamo cercando di comporre proprio dall'inizio di questa stagione della radio, in cui ci si rende conto che comunque la nostra società si stanno allentando i freni. Si stanno allentando i freni da un punto di vista verbale, da un punto di vista della considerazione degli esseri umani con minori difese, minori possibilità di difendersi, in cui sembra ormai sdoganato l'insulto, sdoganato l'attacco, sdoganato la incapacità di elaborare comunque situazioni complesse. Sembra che tutto possa essere radicalizzato in bianco e nero, in buoni e cattivi, in tipo se mi entra a casa io ti sparo e faccio bene a spararti. Ora, fatto questo quadro più generale, vorrei entrare più nello specifico di questo episodio, anche per far capire esattamente quello che si tratta. Ho al telefono Alessandro Andrelli. Alessandro Andrelli, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Alessandro Andrelli è direttore responsabile di TG24 Info della provincia di Frosinone. È un testimone, diciamo, della situazione, dell'humus territoriale in cui si è svolta. Rispetto a quella che è stata la notizia data dagli organi di stampa nazionali, hai qualcosa da aggiungere o da rettificare? Ma chiaramente in queste ultime ore ci sono smentite o conferme di quello che sta emergendo dai media nazionali, ma anche, insomma, quello che è rimbalzato, se vogliamo, dagli organi di stampa locali. Gli indagati al momento sono 9, sono stati interrogati sin dalla giornata di sabato e continuano gli interrogatori in quella che è la stazione dei carabinieri di Alatri, che poi è una delle compagnie più grandi della provincia di Frosinone, anche perché serve un territorio molto vasto. Non si tratta di una vera e propria discoteca, mi permetto solo di rettificare. No, questo noi vogliamo iniziare, visto che lo portiamo come caso paradigmatico di una deriva che comunque sì. A cui stiamo osservando. Vorremmo sapere proprio l'esattezza, un testimone locale, cos'è? Non è una discoteca, cos'era? Come si chiamava il locale? È un circolo Arci Miró Music Club, un pub di ultima generazione, diciamo, dove si fa musica dal vivo e comunque si fa spesso tardi in centro per magari trascorrere il venerdì sera o il sabato. Quindi tutto sommato è anche un ambiente diverso dalla classica discoteca, cioè meno buio, meno chiuso, più circolo di gente, si può parlare, non è poi una discoteca come ce la immaginiamo, è un circolo arci, chissà perché. Soprattutto c'è anche la possibilità di entrare e uscire liberamente, non come nelle discoteche dove magari c'è biglietto da pagare o comunque c'è una selezione. Ma perché i giornali parlano di butta fuori? Poi butta fuori, ci sono i butta fuori, è un circolo arci, mi sembra singolare. Allora la questione è questa: in questo locale già in passato ci sono stati degli episodi, soprattutto delle risse che si sono verificate sia all'esterno e che poi sono proseguite all'esterno, quindi non è la prima volta che succede un episodio del genere. È chiaro che la sicurezza ormai in tantissimi locali della provincia di Frosinone, ma credo anche nel resto d'Italia, viene preferita perché purtroppo le forze dell'ordine hanno carenze non solo organiche ma anche di intervento. Quindi in tanti locali ci sono rappresentanti della sicurezza da verificare se regolarmente in facoltà di poter svolgere questa attività o meno, e sembra che proprio alcuni di loro siano tra gli indagati. Questo purtroppo è quello che sta accadendo. Allora fermati un attimo Alessandro, dobbiamo dare la linea al traffico, riprendiamo proprio fra un istante perché è interessante anche capire il contesto. Il contesto quindi è molto fra virgolette più normale di quello che potesse sembrare, è un circolo in cui andava la gente a parlare, un pub in cui però c'era una sorta di tradizione per cui altre volte erano successi degli episodi strani, e il fatto ci siano dei vigilantes in un circolo arci mi sembra una cosa abbastanza singolare, ma forse la mia poca esperienza di frequentazione mi fa dire questo. Ci fermiamo un istante. Melog, cronache meridiane. Queste cose non è mai successa al mio paese, cioè vedere massacrati i botti di un ragazzo. Un'altra volta qua hanno chiuso il locale una volta per colpa di una rissa, però ci siamo messi in mezzo e abbiamo sventato il peggio. Lui era un bravo ragazzo, non so come sia successo tutta questa patratacca, insomma. Non si può pensare che uno esce per divertirsi e non torna più a casa, cioè è una cosa troppo brutta. Ieri è uscita mia figlia, mi preoccupa, ha la stessa età di quel ragazzo circa, e mi preoccupo ora di mia figlia, delle mie figlie. Ma non è possibile. Bisogna fare una rivoluzione qua. Ai tempi miei non succedevano queste cose. Beh, ai tempi suoi non succedevano. Ai tempi suoi, questo signore che parla, probabilmente se ne parlava un po' meno. Abbiamo una lunga serie di episodi di violenza bruta, esplosa all'improvviso, le cui vittime sono sempre vittime inermi, sempre il più debole, il più indifeso, quello che era lì per caso e poi ci lascia la vita in queste cose qua. 800 24 00 24, stiamo parlando della vicenda di Emanuele Morganti, di 20 anni, ucciso a Latri in una rissa dopo due giorni di agonia. Ne stiamo parlando con un giornalista di TG24 Info, anzi il direttore responsabile nella provincia di Frosinone. Ci saranno degli elementi nuovi di valutazione in questo caso, ma vogliamo anche sapere un parere generale. Avete voi testimonianze, prove, intuizioni sul fatto che ci possa essere comunque un'escalation, o meno un'indifferenza di fronte a certi episodi nel nostro paese? La maggior parte degli sms che mi sono arrivati sono tutti all'indirizzo degli albanesi, che sarebbero i colpevoli di questa cosa. Poi sapremo esattamente quanto ci sia poi nello scontro etnico di ragione in questa vicenda. Sento però prima Nico, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. Dunque, nello specifico, questo ragazzo qui ha avuto la sfortuna, come si diceva, di capitare, di essere in mezzo e di incontrare uno di questi branchi che settimanalmente sono. Io ho un figlio di 22 anni, mi dice: papà, io esco tutte le settimane io assisto a delle risse che non arrivano alla morte perché qualcuno interviene prima, ma se lasciate andare, gente che sarebbe stata pestata a morte, dice: ma signore, vedo tutte le settimane. E la cosa incredibile è l'indifferenza tante volte delle persone. E mi dice: papà, io non so se è la paura che ti prende quando vuoi intervenire anche in difesa, perché quando c'è questo branco, una cosa dice quando è l'uno a uno, cioè la rissa tra due persone, allora, ma quando è una cosa di branco e li vedi che si trasformano, dice: papà, si trasformano, cioè perdono completamente la faccia, gli si trasforma probabilmente singolarmente, ma la cosa del branco è una cosa incredibile, e questo comunque è sintomo di un malessere. Tu dicevi bene prima, ormai si è sdoganato l'insulto, si è sdoganato essere l'aggressività, ci sono trasmissioni nella tua rete in cui c'è, cioè, l'aggressività, le parolacce, non voglio fare la difesa d'ufficio della rete. Sono trasmissioni che registrano con dei toni, con delle chiavi, con delle metodologie di racconto anche questa realtà. Io lo faccio con un occhio diverso, lo fanno con l'occhio di dando libera visibilità al fenomeno che c'è. È anche una maniera per far vedere la piaga fino a che punto è purulenta. Ognuno ha i suoi metodi. Io penso che il bello e il fantastico di una radio come questa, che ci siano i vari registri in cui uno può osservare il fenomeno. Lì lo vedi esattamente, parlano le persone, i diretti protagonisti, il malessere emerge fuori dai diretti testimoni, senza edulcorazioni, senza filtri. Io cerco di rifletterci sopra, ma ognuno svolge in fondo complementarmente una sua parte. Fabio, buongiorno. Buongiorno. Sì. Io non posso che confermare quello che ha detto l'interlocutore prima di me. Io ho un ragazzo della stessa età e sono terrorizzato quando esce, perché quando anch'io mi muovo in qualche locale, non sono le discoteche perché non ne ho più l'età, diciamo, però c'è un gruppo un pochettino fuori dalle righe, lì noi dobbiamo abbassare gli occhi e guardare il nostro tavolino, perché basta un'occhiata e nasce qualcosa. E purtroppo, devo dirlo perché c'è poco da dire, quando ci sono gruppi che arrivano dall'estero, Romania, Albania, Moldavia, che ne so, quelli sono più violenti, non c'è niente da fare. Loro, non so, avranno una cultura, nel paese suo si farà così, sono molto violenti. Ma questo è innegabile, lo dico anche per chi mi sta scrivendo: Nicoletti, non faccia il politicamente corretto. Ora, se c'è una cosa che nella vita non sono mai stato, è essere politicamente corretto. Io sono attento, prima di trarre delle conclusioni, fare dei giudizi, voglio documentarvi, voglio sentire, e ho anche leggerezza di giudizio, non ho pregiudizio, non mi interessa. Benissimo, se non è fuori che è colpa di una banda bieca di albanesi, sarà colpa della banda bieca di albanesi, ma se non è così, non è così. Non voglio dire cosa sia, non mi interessa. Sentiamo allora, riprendiamo con Alessandro Andrelli, questo mi sembra il punto dolente, sembra quasi che ci assolva da tutte le nostre responsabilità nazionali dire che è stata colpa degli albanesi. Che ruolo hanno avuto, diciamo, la comunità dei ragazzi albanesi in questa vicenda? Da quello, allora, che sei te. Sì, quello che sta emergendo dalle indagini è questo: il gruppo non era composto esclusivamente da albanesi, c'erano dei ragazzi di origine albanese, alcuni dei quali svolgevano anche attività di sicurezza nel locale del quale abbiamo parlato prima. A questi ragazzi si sono aggiunti altri gruppi, o meglio altri. Ma questa presunta sicurezza, mettiamo fra virgolette, che non sappiamo poi che titolo avesse, sì, di esserci una sicurezza in un circolo ricreativo. Erano dei ragazzi, questi sono stati i primi a picchiarlo, almeno da quello che leggo nei giornali? Allora, quello che sta emergendo è proprio questo: sono stati loro i primi, anche perché si parla sempre di un'asta di acciaio, di un tubo d'acciaio. Alcuni stanno sostenendo che si tratti di un tipico manganello, anche con diciamo delle scosse elettriche, come viene utilizzato. Ma può essere che sono quei manganelli telescopici che usano? Sono armi che non si possono, può portarle soltanto personale autorizzato, poliziotti. È un tubo. Occorre un permesso. È un tubo di acciaio con dentro una molla, escono delle molle telescopiche, in fondo c'è un altro cilindretto d'acciaio. È un'arma letale perché in testa uccide. È usato dalle forze di polizia in casi estremi, ma è come il pugno di ferro, non si può andare in giro con quello. Esatto, e stiamo parlando di un gruppo di ragazzi di origine albanese e di ragazzi della città, della comunità di Alatri. Quello che voglio precisare è che il ragazzo Morganti è di Tecchiena, che è una frazione di Alatri di poco meno di 4.000 abitanti, mentre la città di Alatri ne ha 29.000. E questo cambia molto la considerazione che aveva da Alatri uno che viene da Tecchiena, che è a solo pochi chilometri. Questo può diventare fondamentale, perché Alatri dista dalla frazione di Tecchiena circa 5 chilometri, ma c'è una faida tra queste due comunità che può sembrare paradossale, ma purtroppo negli anni e negli ultimi mesi non sono mancate risse tra cittadini di Aladri e albanesi e cittadini di Techiena. Purtroppo è quello che è accaduto anche nei mesi scorsi. Io mi sono andato a rivedere delle notizie pubblicate dal nostro portale, le ultime sono del 25 di ottobre di Capodanno o della scorsa primavera, quando sempre nel centro di Alatri si sono verificati episodi del genere con risse che fortunatamente non sono degenerate. Allora aspetta Alessandro, stai dicendo una cosa secondo me importante a comprendere. Questo non è un episodio dovuto a un momento di esplosione di una rissa. Quello che dici te e la tua testimonianza è importante, perché io sapevo e immaginavo che ci volesse qualcuno che conoscesse bene la realtà del posto. Quando parliamo della provincia italiana, non puoi parlarne in maniera superficiale se non entri dentro a capire i meccanismi che si muovono, e che come fosse una famiglia, un condominio, non capisci bene se non ci stai dentro. Da fuori la facciata è un'altra. Tu ci stai dicendo che c'era in atto una faida vera e propria fra Alatri e fra cittadini di Alatri e cittadini di Techiena. Come si chiamano, i techinesi? I techinesi e quelle persone di Alatri fra di loro comunque non si potevano vedere. Ma il motivo qual è? Il motivo, ci sono problemi di, non so, di rivalità calcistica, o semplicemente un odio che non si capisce dove nasce? Ma la rivalità ci può essere anche in ambito calcistico, anche se parliamo di un livello davvero dilettantistico per quello che riguarda il calcio, per quello che è nella realtà. Però può essere la base, come romanisti e laziali, una cosa esatto, del genere. Purtroppo mi veniva da fare questo ragionamento. No, vabbè, è indubbio. È come il discorso del tifo tra Roma e Lazio. Quando si entra in un club di laziali ed entrano dei romanisti, non vengono ben visti e molto spesso finisce come sappiamo. Sì, Massimo Boldi ci ha fatto uno delle sue più fortunati sketch cinematografici, il milanese che gli tatuano il lupacchiotto della Roma, poi entra dentro il club avversario, succede di tutto. Il tifo è anche divertente come contrapposizione, però nelle sue ricadute c'è questo. Quindi c'è in atto una faida che è una faida abbastanza tesa, con episodi comunque. Ci sono stati episodi già di precedenti, di risse, di combattimenti, di andare alle mani, oppure è semplicemente rimasto uno scontro verbale? No, ci sono stati degli episodi di rissa in pieno centro, sempre nella stessa piazza dove si è verificato l'episodio di Emanuele Morganti, che sono stati sedati dalle forze dell'ordine con arresti. In tutto questo la componente comunque rom, la componente degli albanesi è presente, anche perché c'è da dire che negli ultimi anni, soprattutto nel centro di Alatri, la comunità prettamente residente in quella zona è di origine albanese o rumena, e questo ha creato anche un aumento non solo della pericolosità del centro storico, ma anche furti, rapine e tutto ciò che purtroppo va contro l'incolumità della stessa cittadinanza. Ecco, quello che può accadere in una grande città, in un quartiere che viene marginalizzato quando un'etnia se ne appropria. Il quartiere cinese comunque è un quartiere comunque in cui si creano comunque delle difficoltà. La zona dell'Esquilino qui di Roma comunque è una zona dove ci possono essere difficoltà. Quando si creano i ghetti separati possono esistere problemi. In un centro così piccolo, mi rendo conto, provinciale, una forte prevalenza di alcune etnie può creare dei problemi. Ci fermiamo un istante perché si fa interessante il discorso di Alessandro Andrelli e ci sentiamo tra un istante. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. 800 24 00 24, abbiamo il telefono. Marina, buongiorno. No. Ascolto, Marina. Allora, ascolti, a noi è successa una cosa molto simile, ma con risvolti più positivi, diciamo, nel senso che... Dove è successo? Allora, noi siamo di Brescia, è tornato da una discoteca di Cazzago San Martino, che è qui nei paraggi. Praticamente è successo questo: lui ha visto che stavano trascinando di fuori una ragazzina che non conosceva, premetto, un gruppo di ragazzi che lui ha definito rumeni, però non so bene di che etnia siano o che nazionalità. In che provincia è, signora? In che provincia è, Marina? Brescia. Provincia di Brescia, sì. Ha preso per il braccio il ragazzo che la stava portando fuori, non avvedendosi che dietro c'era un altro gruppo di ragazzi che si è avventato contro e l'hanno pestato. però i presenti nella discoteca, questo è quello che ha fatto più male a me e penso che abbia più fatto più male a lui, hanno fatto circolo intorno a questa cosa e hanno lasciato che i due si pestassero. I due, il ragazzo sotto e il gruppo sopra che lo pestava. Non sono intervenuti i buttafuori. Quando hanno finito se ne sono andati. Lui è stato portato all'ospedale dai suoi amici, cosa che non dovevano fare, dovevano chiamare subito i carabinieri, ma nell'imminenza i ragazzini hanno pensato bene di portarlo all'ospedale. E quando poi la domenica siamo andati a fare denuncia ai carabinieri, i ragazzi del gruppo che l'avevano pestato si erano anche taggati nelle foto delle discoteche che adesso fanno foto per le serate. Lui li ha riconosciuti, ma a distanza di ben 4 anni non si è fatto più nulla. Dopo 4 anni. Va bene, grazie Marina per farci capire che il fenomeno è ben presente anche in altre parti d'Italia. Però lo riprende con Alessandro Andrelli, che ricordo direttore responsabile di TC24.info nella provincia di Frosinone. Ci sta facendo un quadro dettagliato della vicenda. I giornali parlano di una mattanza. Esattamente cosa è accaduto durante questa discoteca? Perché sennò dà l'impressione soltanto due persone che si sono accapigliate e una ha preso a sprangate l'altro. Esattamente cosa è accaduto quel giorno? Quella sera. La ricostruzione dei fatti è contrastante, nel senso che tanti stanno depositando la loro verità in quello che è poi insomma il luogo preposto, vale a dire la caserma dei carabinieri di Dialatri. Sta emergendo questo, il battibecco è iniziato dentro il locale, il ragazzo poi sarebbe stato portato fuori a spintonate o comunque in un modo o nell'altro sarebbe stato portato fuori dai buttafuori. Lui era solo con la ragazza, non aveva... Lui era solo con la ragazza, lavorava in una fabbrica, faceva un lavoro molto semplice, era un operaio, era tornato dal turno serale, quindi alle 22, fatta una doccia, presa la ragazza e portata nel pub dove probabilmente chissà quante altre volte erano stati negli ultimi mesi. Ecco, ma non c'era un rischio, visto che era in atto questa faida, per un ragazzo di quell'altro paese di andare di Tecchiena, di andare in un pub di Alatri dove già c'erano stati episodi? Ma i paesi sono attaccati, cioè sono vicinissimi, la faida è purtroppo qualcosa che c'è ormai radicata nel tempo. Cioè uno dovrebbe star chiuso in casa se ci avesse paura. Dovrebbe star chiuso in casa, ma la cosa non solo che è impossibile, ma insomma vorrei che si capisse anche la portata della faida. Molto spesso finisce con uno spottò tra tecchinesi e alatrensi e null'altro. Cioè insomma, non c'è un coprifuoco, uno tranquillamente no, gira ogni tanto. Maniera più assoluta, ecco. Nella maniera più assoluta. Ciò che può degenerare purtroppo è l'uso di alcol e di sostanze stupefacenti che in determinati casi e episodi ha portato già ad altre risse e soprattutto poi quando si viene a creare, ripeto, questa piccola rivalità che c'è all'interno di un paese di poco meno di 29.000 abitanti, è chiaro che la cosa si può ingigantire. Il ragazzo sarebbe stato picchiato in maniera violenta e brutale da questo gruppo misto di alatrensi e albanesi all'esterno della discoteca. Ecco, ma cosa è data questa alleanza? Perché io sto rispondendo a una serie di messaggi, mi stanno arrivando, mi ha scritto adesso un ascoltatore: bravo Nicoletti, sta riducendo un pestaggio a morte il fenomeno della violenza di strada, sempre più diffusa e importata alla straniera, la macchietta della guerra dei bottoni e la rivalità fra opposte tifoserie, un bel encomio. Sto cercando di ricostruire con una persona che abita nel luogo in cui si è svolto la tragedia, nella maniera migliore che lo sta accadendo, non sto minimizzando nulla. Dico quello che mi sembra di aver capito e tu correggimi Alessandro, dico stupidaggi. Alatri e Tecchiena sono due località confinanti, tra cui c'è un'antica rivalità per motivi di calcio e via dicendo. Poi succede, accade in tutti i paesi, sono rivalità così. È stata acuita e portata a livelli diciamo di escalation sempre superiore questa rivalità, con piccole risse, con scontri, dal fatto che ad Alatri si è insediata una comunità straniera, mi sembra soprattutto albanese, rumena, che in qualche maniera ha radicalizzato questa violenza. Se lo scontro fra paesani si sarebbe limitato a qualche spinta, a qualche sfottò, adesso lo scontro è aumentato di livello, c'è un'escalation, tanto che in uno dei posti di incontro di Alatri ci sono dei vigilantes che sono poi anche albanesi. Albanesi e alatriani hanno in qualche maniera stabilito un'alleanza fra di loro, non so bene finalizzata a cosa. Questo è stato il terreno di coltura in cui poi si è verificato questo incidente. Correggi e rettifica quello che ho detto, se ho capito bene, non so. No, il ragazzo assolutamente va precisato questo, è un ragazzo normale, un ragazzo come tanti, ed è un ragazzo che faceva una vita assolutamente serena, non apparteneva a nessuna banda né a nessuna gang che magari potesse entrare nel giro di droga o cose di questo tipo. Un ragazzo che lavorava, si guadagnava la vita e il sabato andava la sera, andava con la fidanzata a bersi una birra come normale. Esattamente. Una parola di troppo probabilmente riferita nei confronti della fidanzata, uno spintone tira l'altro e purtroppo la cosa è degenerata all'esterno del locale. Quello che sta emergendo, mi permetto di aggiungere questo, è che, perché ne stiamo sentendo anche molte in questa mattinata, anche se non fa molta differenza, però è giusto dirlo, il colpo vitale sembra che sia stato dato ad Emanuele da un italiano. Questo non so quanto potrà, cioè la sprangata che lo ha ucciso. Sì, sembra che sia stato dato da un italiano. Non so questo che cosa possa cambiare nella mente di tanti. Ma mi sembra aver capito, scusa Emanuele, che tanto comunque, se vogliamo, con tutti i distingo, le virgolette possibili, il gruppo, la banda era costituita da un gruppo misto di italiani e di albanesi, quindi l'etnia c'entrava poco in quel caso. Esattamente, esattamente. Chiaramente sono 9 gli indagati, come dicevo, tutti per omicidio, come vuole la prassi, ma quello che si sta scatenando in città già da ieri, ma già dalle prime ore in cui si è saputa la notizia, e chiaramente il ragazzo era molto grave, è proprio la ripercussione che potrebbe avere dal punto di vista della sicurezza, perché a ridosso della caserma, che poi si trova nella parte alta del paese di Alatri, quindi diciamo nella zona centrale, si va sempre aumentando il numero anche di ragazzi, di giovani, di Alatri e di Techiena che vogliono sapere la verità e vogliono sapere chi è stato. Ora ci sono manifestazioni, presenze di persone, cosa sta succedendo? Esattamente, ci sono persone che sono lì in attesa forse di vedere in viso chi è stato, una sorta di caccia all'uomo, quello che si sta cercando di evitare. Aspettano che entrino le persone per essere interrogate, per strillare quelle cose che si fa di solito. Esattamente, ecco perché vi dico che i 9 indagati, da quanto risulta alla nostra redazione, sono nella caserma. Quelli che avrebbero commesso il fatto sono in stato di fermo nella caserma, non sono usciti. Altri che hanno testimoniato sono tornati poi a casa, quindi la situazione è complicata anche per questo, perché chiaramente poi si vanno a ripercuotere le vicende di giovani, di ragazzi che vogliono fare giustizia e molto spesso pensano di poterla fare da soli. Questo è un punto delicato. Aspetta un attimo, Sandro, sentiamo qualche telefonata. Fabio, buongiorno. Fabio? Pronto? Sì, Fabio, l'ascolto. La sto ascoltando. Pronto? Vabbè, Fabio, se non sente Paolo, diamo Paolo, secondo. Sì, pronto? Sì. Buongiorno. Ascolto. Ah, ok. No, mi collego proprio a queste ultime frasi dette anche dal giornalista. Cioè, secondo me andiamo in una situazione dove continuerà a esserci sempre più sfiducia nelle forze dell'ordine, perché poi effettivamente voglio capire cosa fanno le forze dell'ordine in queste situazioni. Beh, sai, è difficile che ci siano dei carabinieri per ogni pub, per ogni circolo arce. No, vabbè, ma non è quello. Sì. Il carabiniere può... E le forze dell'ordine, loro... No, mi sono espresso male. Il carabiniere è un operaio che agisce... Interviene quando c'è un reato, quando c'è una situazione... Esatto, però quanto come la signora di prima che ha chiamato da Brescia, quando andiamo avanti, poi staranno... processi che durano anni. Ah, quello anni. È chiaro, quello è chiaro. Quello allora, sì, quello è vero, tutti quello gli stranieri, gli italiani compresi, si sentono ormai impuniti, vanno in giro a 20 anni con le spranghe a fare violenza, perché se ci fosse, come in altri paesi d'Europa, molta più severità, magari ci pensano due volte. Sì, questo c'è un senso generale di poterla fare franca, uno si può permettere di dire alzo anche il livello dell'aggressione, l'aggressività, del rischio comunque di essere coinvolto, tanto poi cosa mi succede? Questo si vede soprattutto paradossalmente nei servizi delle Iene, senza voler fare poi le idolatrie delle Iene. Quando sentono persone pesare, con tanto non mi succede niente, posso continuare a rubare, a borseggiare, a fare qualunque cosa, tanto cosa volete che mi fanno. Sì, questo corrisponde a realtà. Riprendo con Alessandro Andrelli, allora. Riprendiamo un po'. Alessandro, dicevi che in questo momento la situazione a rischio è, diciamo, quello che potrebbe esplodere come disagio generale nelle due frazioni che sono state colpite da un episodio così grande. Cioè adesso facciamoci giustizia. Esattamente. Ieri era in programma una fiaccolata per per le strade di Alatri, fiaccolata che non è stata autorizzata, fiaccolata che non si è svolta. Ora tutto è stato rimandato a domani sera, la fiaccolata chiaramente sarà il ricordo di Emanuele, mentre quella di ieri era stata organizzata quando ancora Emanuele purtroppo non era deceduto, per cercare di pregare, trovare un momento anche di unione tra famiglia, amici e la comunità di Alatri. Il fatto di aver ieri annullato questa fiaccolata chiaramente è un alert importante anche dal punto di vista della sicurezza. Altro elemento che è emerso proprio in queste ore è che le telecamere che sono sistemate, soprattutto nel centro di Alatri, una proprio in quella piazza, sembrerebbe che non funzionasse quella sera e quindi potrebbe non aver ripreso quello che è accaduto. Come è successo. Come spesso purtroppo a me accade, proprio nel momento in cui ci sarebbe bisogno di una registrazione, la telecamera non funziona. Fermo un attimo, ci dobbiamo fermare ancora un attimo, poi riprendiamo sempre con te. Faircam Distribution, la soluzione adatta per la spedizione dei vostri prodotti in Italia e in Europa. Faircam.com vi presenta Melog, cronache meridiane. 800240024, stiamo analizzando nei particolari la situazione di Alatri, dove è avvenuto un fatto di sangue, un ragazzo è stato ucciso in un pestaggio fuori di un locale dove c'erano anche altri ragazzi, ma abbiamo anche testimonianze e riflessioni da tutta Italia. Massimo, buongiorno. Sì, salve. Niente, il mio pensiero è questo: io mi rendo conto che c'è stato un grosso cambiamento della società. Dire che la società di adesso sia meno violenta, più violenta di quando ero giovane io ho 41 anni, quindi di 20 anni fa, secondo me non è corretto. Io noto che prima la violenza era molto canalizzata su un discorso politico, quindi c'erano i fascisti, i comunisti e ci si menava in determinate situazioni, o c'era anche il fenomeno ultras che negli stadi, che era molto forte. Adesso questa cosa ideologica è venuta meno, quindi la violenza si sta sfogando con dinamiche diverse, meno controllate. In più, secondo me, quando ero giovane io c'erano delle mode per quanto riguarda le droghe diverse. Prima si fumavano le canne, adesso chi si faceva di droghe pesanti era l'eroina, che è riaddormentato sul lato. Adesso l'abuso di droghe come la cocaina, anche su gente della mia età, è molto forte. Ma indubbio che anche l'escalation delle sostanze che si usano in discoteca non sono sostanze come l'eroina, che finisce come uno straccio in un angolo, hai ragione. Esatto. Sono sostanze fatte apposta per rimanere svegli, per avere impactogeni, avere relazioni. Red sempre Bull, più cocaina, cioè, stare su di giri, per stare su di giri, non per dormire, è questa la cosa. Per stare su, questo è un elemento, senz'altro un elemento. Giancarlo, buongiorno. Sì, buongiorno, buonasera a tutti. Anzi, buongiorno. Niente, io volevo portare la mia riflessione. Io sono padre di un ragazzo di 18 anni, io di anni ne ho 63, faccio anche il dirigente sportivo di una società di calcio. E quello che vedo è una continua voglia di rissa di questi ragazzi di 17-18 anni. E soprattutto quello che vedo con grossa difficoltà è la possibilità e la capacità di dire a loro: fate un passo indietro, a un certo punto è necessario che qualcuno si fermi. In che senso? Faccio capire meglio. Faccio capire che se io esco da una discoteca o da un pub e urto una persona e questa mi dice che diavolo fai, e ci mettiamo il diavolo tra virgolette, io posso rispondergli in vari modi. Il modo più intelligente di rispondergli è: scusami, ti ho rovesciato la birra, te ne pago un'altra. Ma no, lei già ha detto una cosa giusta, non so se ricorda e ci segue, spesso facciamo trasmissioni sulla difesa, sull'aggressività, quello che hanno detto anche maestri eccelsi di difesa personale, cioè la prima strategia è sempre cercare di evitare comunque lo scontro, è chiaro? Certo, ma io queste cose le vedo, ripeto, anche quando giocano a calcio, io ho partite che finiscono continuamente in rissa quando è finita la partita, perché uno tira in ballo la mamma, quello gli risponde tirando in ballo la mamma, la sorella e l'intera generazione. A un certo punto il compito di noi educatori, ma è difficilissimo perché io per primo con mio figlio, con i miei ragazzi non ci riesco, è insegnargli a fare un passo indietro. Perché quella è la ragione, però capisca il contesto: un ragazzo che esce con la fidanzata no, avrebbe fatto meglio, certo avrebbe fatto meglio, no, a far finta di nulla. No, non sto parlando di questo caso, perdonatemi. Sì, sì, cioè, in generale. Non era questo il caso, è proprio anche perché la maggior parte dei, almeno dei ragazzi che vedo io, non sono capaci di picchiare. Sì, cioè, però, scusi Giancarlo, questo vale per i bravi ragazzi che vanno innocentemente in un locale con la fidanzata o non escono di casa già con la spranga in tasca, col pugno di ferro, con l'intenzione di far casino. C'è chi esce con l'idea, stasera vado e voglio spaccare qualche faccia, e con quelli c'è poco da fare, c'è solo da sperare di non incrociarli, e se si incrociano comunque sia, sperare che l'attimo fuggente dell'incontro possano ripensarci un secondo. E veramente ha ragione lei, fare pippa, come si dice fra virgolette, cioè lasciar perdere, è chiaro che se si risponde si entra in un'escalation abbastanza pericolosa. Sentiamo ancora Alessandro Andrelli, ricordo direttore responsabile di TC24.info della provincia di Frosinone. Su questo fatto che in realtà tutto sia nato da un battibecco per un complimento, per un commento, scusa, a una ragazza, c'è qualche testimonianza che tu hai raccolto, che sai, poteva essere evitata, anche se ormai è sciocco dirlo a posteriori? Se poteva essere evitata, non lo so, non c'è dato sapere, nel senso che purtroppo gli interrogatori in caserma si stanno alternando e spesso sono contrastanti tra loro. Ecco perché anche attraverso i social, ma soprattutto attraverso le tante persone di Aladri che stiamo cercando di conoscere, soprattutto di intervistare, sta venendo fuori proprio questa ribellione. E mi spiego meglio rapidamente. C'è chi dice sapevano, sanno, e al di là di non essere intervenuti, perché chiaramente in quel momento intervenire contro un branco non è cosa da tutti, non solo non sono intervenuti, ma ora tacciono. Quindi il fenomeno, ecco, del sul non essere ora intervenuti è anche comprensibile quando vedi gente con delle spranghe che massacra, non siamo leoni, non siamo abituati. Soprattutto se sono persone già conosciute, ecco. Seconda cosa, però, se sei stato testimone a un evento del genere non puoi stare zitto. Sonia, buongiorno. Sì, buongiorno. L'ascolto. Sì, volevo confermare quello che lei diceva fondamentalmente. Lei cos'è, da parente di Emanuele? Sì, il papà di Emanuele è mio cugino. Quindi lei ha una cugina di secondo grado della vittima di questo episodio? Sì, non so come definirmi, però insomma sì. Dicevo, volevo confermare quello che stava dicendo lei. Lì ci sono persone che sono uscite con l'intenzione di uccidere, di far del male, hanno trovato Emanuele, poteva essere il fratello di Emanuele, poteva essere mia nipote, cioè non si faceva distinzione. Ma di questa situazione, Sonia, ne erate a conoscenza? Comunque c'erano dei posti in cui era pericoloso avvicinarsi? Assolutamente, assolutamente, mia nipote frequenta il locale praticamente tutti i venerdì. Quindi era abituale quel locale, andava lì, era un posto... Sì, assolutamente, Emanuele stava lì con la ragazza, tranquillo, come sempre, non c'erano i presupposti a che avvenisse tutto questo, non c'erano assolutamente. Tra l'altro Emanuele era una persona esile, che anche fisicamente, voglio dire. No, certo, la persona che va a cercare una rissa. Ma assolutamente, una persona che usciva la mattina, andava a caccia, a pesca, ultimamente aveva trovato un lavoro, quindi aveva appena finito di lavorare alle 10. Cioè un ragazzo tranquillo e realizzato. Ma sì, siamo una famiglia tranquillissima. Non era in nessun conto. Alatria è una città di 4.000 abitanti, un paesello, non una città, dove anche le persone che vengono da fuori sono perfettamente inserite, quindi non si tratta né di razzismo né di nulla. Ecco, però allora, alla fine, secondo lei, qual è stato il movente, la cosa che ha scatenato? Il desiderio comunque di cercare di menarvi le mani, di fare una vittima? La rissa e tra l'altro le persone di Alatri che sono intervenute in maniera negativa cercavano solamente questo, indistintamente. C'è voglia di far uscire del sangue altre persone? Esattamente, esattamente. Non ha a che vedere, credo, con droga. Probabilmente la persona che ha iniziato tutto questo era solamente, aveva bevuto. Ma non, questo non, cioè, se non ce l'hai questo istinto omicida, neanche l'alcol. Quindi, grazie, Sonia, le stiamo vicini per quanto è possibile. È un momento molto difficile per la sua famiglia. Speriamo di aver dato degli elementi comunque di riflessione, anche se di non soluzione a questo problema. Alla prossima.